Radio 24 Reportage. Un calcio al razzismo di Dario Ricci. Regia di Valeria Bernardi. Assolutamente, io non ho accusato il Verona, non ho accusato la curva, io ho accusato pochi scemi che l'hanno fatto e li ho sentiti, quindi mi sono arrabbiato. Se vuoi distrarre un giocatore, lo puoi distrarre in mille modi, ma non a sfondo razzista, basta, a sfondo razzista non ci sta. Non va bene, io sono italiano al 100%. Stride la voce di Mario Balotelli, il bomber del Brescia anche quest'anno vittima di cori beceri e infamanti, che graffia sul dolente violino che è sofferta colonna sonora della tragedia della Shoah. Ma è questa la partita che il calcio italiano sta giocando. Bandire dai propri stadi razzismo e antisemitismo, riportare al centro lo sport e i suoi valori, il rispetto per la parte sana dei tifosi e per i protagonisti del gioco, loro, i calciatori. Nello sport non esistono nemici, ma solo avversari. Rispetto perché senza di loro non c'è gara, rispetto regole, arbitri e giudici. Se ne è parlato a Roma in un incontro tra i vertici del nostro calcio promosso dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Presenti istituzioni politiche, dirigenti, giocatori, per provare a trovare strategie, soluzioni. Al centro appunto loro, i calciatori, a portare testimonianza, a suggerire vie d'uscita. Il presidente dell'Asso Calciatori, Damiano Tommasi. Chiedere alle vittime cosa si aspettano e cosa possono fare a volte è complicato, sicuramente i calciatori sono tutti allineati sul clima che si vuole all'interno degli stadi e purtroppo in alcune situazioni c'è quasi frustrazione perché appunto alle parole spesso e volentieri non seguono decisioni forti e quindi si va ad abbandonare il campo a far finta di niente e in questo range ci sono tante attività e tante azioni che si potrebbero e si dovrebbero fare e che probabilmente oggi se coordinate possono dare qualche frutto visto anche la sensibilità dimostrata negli ultimi tempi da più parti. Ognuno deve fare la sua parte, anche i giornalisti, perché cambiare le parole con cui si racconta il calcio può contribuire a cambiare mentalità e stereotipi e a svuotare di significato ululati e offese. Basti pensare agli attacchi della curva viola contro l'allenatore dell'Atalanta Gasperini nella recente sfida di Coppa Italia. Solo l'ultimo di tanti episodi, ricorda Tommasi. Questo nasce nelle famiglie, nasce nelle scuole. Sicuramente anche l'episodio di Gasperini è emblematico di quello che purtroppo ci siamo abituati a sentire e il modo in cui ci siamo abituati a seguire le partite sia dal vivo che sui social e questo sicuramente è un lavoro lungo, è un lavoro complesso, un lavoro di tanti e a cominciare come detto dalle nostre famiglie, quindi abituarci anche a un linguaggio educato è vero che non è forse più di moda ma secondo me è una delle chiavi. Palla dentro per Boateng, Boateng si gira, Boateng viene a giocare, Boateng... e Boateng si arrabbia. Boateng tira il pallone contro i tifosi della Propatria che lo beccano. Non si può giocare a calcio in questa maniera. Dovrebbero essere i giocatori della Propatria ad andare a parlare con i propri sostenitori. Coraggio e responsabilità vengono chiesti ai giocatori e ai politici di non andare a braccetto con gli ultras responsabili di cori infami e saluti fascisti, stigmatizza la presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Noemi Di Segni. Calciatori che devono avere il coraggio di dire no, in questa partita non gioco anche se perdo non lo so quanti migliaia o milioni di euro. Squadre di calcio che si prendono le loro responsabilità per come gestiscono il rapporto con le loro tifoserie e devo dire assolutamente di emergenza tifoserie che sono gruppi di estrema destra e che non possono essere in alcun modo legittimati. Le curve non sono partiti, le curve non sono gruppi politici, non possono essere usate per scopi o per una dialettica politica. Una prima chiara risposta arriva proprio dal Palazzo della Politica, col ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, che preannuncia nuove misure antirazzismo. Credo davvero che nel giro di molto poco avremo nuove misure, soprattutto sono nuove misure tecnologiche, cioè che utilizzano tecnologie estremamente avanzate, mai ancora utilizzate nel nostro paese e soprattutto credo che si possa fare molto di più e che le società debbano fare molto di più, cioè il mondo dello sport è un grande mondo di business, però deve essere un mondo soprattutto che esprime valori. Se puzza, se Chiamate in causa, le società provano a reagire per bonificare le curve, rendere gli stadi più sicuri e quindi il proprio business, non dimentichiamolo, più solido e profittevole. L'amministratore delegato della Lega Calcio di Serie A, Luigi De Siervo. Il calcio italiano deve riuscire a recuperare il tempo perduto nella lotta contro il razzismo. Cercheremo di fare in 2 anni quello che la Thatcher ha fatto in 10. Abbiamo in atto con le forze dell'ordine, con il Ministero degli Interni, una serie di iniziative atte ad individuare uno per uno le persone responsabili di atti contro il giocatore in campo. Ed è con questa la vera battaglia che faremo. Le telecamere all'interno dei stadi ci sono e le procedure sono state organizzate. Quindi questo sarà il punto vero di attacco. E poi tutte le iniziative di sensibilizzazione, che sono tante. Partirà dall'ascolto dei giocatori che hanno subito atti di razzismo all'interno del campo, e a seguito di questa fase di ascolto potremo battezzare entro la fine del mese di febbraio una serie di iniziative, diciamo, che cercheranno di sensibilizzare dalle scuole fino alle tifoserie il pubblico, perché capisca, perché all'interno di quello che è un percorso di crescita e di conoscenza evidentemente certi episodi non si verifichino più. Misure repressive quindi e nuovi percorsi culturali, concorda il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina. Una prima fase a brevissimo termine, quindi l'adozione di sanzioni particolarmente severe, e come abbiamo sostenuto sono le più severe a livello internazionale. Uno a medio termine, ricorso alla tecnologia che ormai è perfezionato, quindi si tratta solo di avere l'ok e di condividere il percorso con il Ministero degli Interni. Poi c'è quello a lungo termine sul quale stiamo già lavorando e riguarda il processo di educazione e di formazione dei ragazzi e dei giovani all'interno delle scuole. Del resto, sottolinea ancora Gravina, educare vuol dire anche cambiare la mentalità di chi quelle curve le riempie oggi e soprattutto lo farà domani. Il fenomeno è un fenomeno molto antico, lo conosciamo bene. Il fenomeno della globalizzazione ha generato questo atteggiamento da censurare, ma è evidente che tutto quello che noi stiamo portando avanti è un processo nuovo, un processo culturale. Tutto il fenomeno è un fenomeno di educazione, quindi su questo noi dobbiamo incidere, abbiamo la responsabilità di dover far capire quanto sia importante vivere i luoghi di aggregazione, di socializzazione nel modo più esemplare possibile. Al tempo delle Olimpiadi in Grecia si fermavano le guerre, perché lo sport è stato soprattutto, perché testimoniava il superamento degli steccati di carattere sociale, culturale, economico, razziale, fisico. Qualcosa si sta muovendo in effetti, e proprio da parte di quei club spesso alla ribalta per i comportamenti razzisti dei propri ultra. La Lazio del presidente Claudio Lotito, presente all'incontro di Roma, ha sospeso ad esempio l'abbonamento per 3 gare e chiesto un risarcimento danni a quei tifosi che, con i loro saluti fascisti nella gara di Europa League contro il Rennes dell'ottobre scorso, hanno causato la chiusura della curva nord dell'Olimpico per un turno e un'ammenda dell'UEFA allo stesso club. E il futuro ora? Che calcio, che stadi dobbiamo aspettarci? Enoch Ngbesso è attaccante dell'Under 17 del Milan. Bresciano di origini ivoriane, ha vissuto sulla propria pelle il razzismo, anche in campo. Sì, sono di colore ma sono italiano, sono fierissimo di essere italiano e sono fiero anche di essere di colore. E la solidarietà ai miei compagni me l'hanno sempre data, qualsiasi compagno, non c'è mai stato discriminazione nei miei confronti, tranne vabbè, in qualche partita, ma vabbè. Io ne sono sempre uscito a testa alta, non ho mai dato importanza alle parole. E credo che anche le persone che vengono discriminate debbano cercare di dare meno importanza, però posso capire che a molti possa dar fastidio, proprio per questo bisogna andare avanti. Ragazzi come Enoch ci indicano una strada, stretta e difficile certo, ma è l'unica per riappropriarci dei nostri stadi, del nostro calcio. Non metto in dubbio che ci sono stati molti episodi anche tra noi giovani, ovviamente molto meno rispetto a quelli grandi, però noto tanto che ultimamente ci sono sempre meno episodi e di questo sono fierissimo. Vorrei tanto che questa cosa si rispecchi anche nei campi dove ci sono giocatori con più visibilità. Solo così possiamo andare avanti, perché il razzismo ormai è una cosa troppo vecchia, è una cosa che veramente è insopportabile, perché prendere di mira delle persone, perché alla fine siamo tutti uguali, è veramente brutto. Io so come ci si sente, ci sono passato pure io. È ora di dire basta, di guardare avanti e di insegnare alle generazioni future che siamo tutti uguali, che non c'è differenza tra nessuno. E